italiani. No, no, io ho il sacco, io però con la cosa originale, dove dentro, ma ce l'ho da là. Avete deciso che esami fuori da voi? Secondo me che devi in una stanza. Che esami fuori? Come è Guantanamo? Ci vengono in una stanza. Non fate dai, non muovi il manager. Guardate dalle telecamere. Il manager devo rivedere tutte le registrazioni, vedere un po' di quelle cose lì. Invece la riorganizzazione di fare a febbraio. Milano, se ce la faccio, e il testo. Io i testi li ho io stampato. Anzi, difatti ne parlavo anche prima con Emanuele di far prima governance, è un po'. Lui lo facciamo il primo di febbraio, non ce la facciamo mica far governance. Forse ci lui diciamo che è provvisorio. Ma si sa già con gli appelli. Lui ha detto l'11 di gennaio e il primo di febbraio. Però per gli altri si sanno già. Se lo dice governance. Più che altro c'è la questione dei materiali. Cioè il professor Tessa aveva detto che vi chiederò a voi che siete qua riguardo alle lezioni fatte e svolte nell'aula. Quindi secondo me conviene che cerchiamo di sentire quelle registrazioni che abbiamo e preparare la testa e governance. Ecco. Più o meno come dire. Se voi ti sposto i materiali, come dicevi, ho scaricato tutto e ce li ho in PDF, sì. Dopo te li. Sì. Così riorganizzazione dopo, perché. No, io. Perché più che altro io ho tutti i testi di questa materia, anche le cose che non li ho stampati, ce li ho in PDF, cioè non in PDF, ce li ho stampati in libri. Uno ce l'ho anche in PDF. Però se c'è un vero problema, cioè si vede così, ma. Allora tenete conto che io devo, ci devo chiudere, io più che altro penso che l'ultima del giorno. C'è un piccolo problema del 14 e del 18, perché ci mangia il tempo. Sì, delle prima preparazioni. Ho problemi sul lavoro, capito? Dopodiché tenete conto che il giorno primo di gennaio ho il trasloco della struttura, che mi comincia dal 10 gennaio fino al 26 di gennaio, quindi devo traslocare 70 persone in 70 stanze. E quindi sono un po' in croce, alla fine ho detto vabbè, se di me brutto col paracadute Dio vede di provvedere. Una mano in ogni pubblico. No, facciamo un appalto come. comunque devi cioè segnare, se compri il quadro, no, no, ma se è già andato una settimana, secondo me vuole aspettare che finiscano le lezioni. Ma c'è 5 tra le centinaia di cose che abbiamo visto. Avete cominciato a portare qualche libro per caso, così a ricicchiare? E certo. Con tutto il tempo libero che avete. Mettiamo su vicino per osmosi. Spero che passi. Bisogna dormire, però se no non passa. Bravo. Comunque, diciamo che se doveste cominciare a guardare le cose nel corso delle vacanze natalizie, non è che io sparisca, eh. Intanto ci sarà un ricevimento studenti anche forse la settimana di Natale, adesso devo capire un po' come. Giorno di Natale. Sì. No, tanto sto qui poi con un bambino piccolo a cazzo, starci il meno possibile. Oppure mi potete scrivere, o durante il ricevimento, se non potete venire, mi chiamate al telefono, d'accordo? Da massima disponibilità, se vi serve una mano o qualche cosa che non dovesse essere chiara, cioè. No, ma adesso vedete che non lo trovo, perché era nell'altra. Insomma, avevamo visto la formula della varianza, vi ricordate? E poi non era uscito, c'era stata una differenza nel caso. Sì, che c'era okay. Meno uno. Ok, allora, siccome io poi ho dato questo chiarimento, ma mi è poi venuto dopo, immaginando sulla lezione, in mente che forse mi aveva ascoltato solo la vostra collega, perché avevo parlato con lei, dopo la pausa, vi do un chiarimento che è una cosa importante. Cioè, per calcolare la varianza... Questo è un dato, si può dire, provare a vedere dove è il dottore per alzare questo poterone. Certo, perché no. Se riusciamo, dobbiamo scrivere tranquillamente sotto. Sì. Certo, perché adesso io ho la formula in un'altra... Si vede là? No, non è lì. Se c'è in quelle queste cose. Allora, ti vediamo lì. La scrivania, lì nero. Guarda se c'è qualche più. Ecco, se ricordate... C'era questo? Ok? E c'era una differenza rispetto al calcolo. Poi io ho dato questa specificazione dopo. No, non è la metà. Allora, questa formula qua, perché oggi la dovremmo usare per la centralizzazione. Questa è la varianza per l'intera popolazione, cioè se voi avete una popolazione intera di soggetti, 2000 soggetti, li intervistate tutti, questa è la formula adeguata, d'accordo? Per l'intera popolazione, e con i reticoli questo può succedere, perché se voi avete un gruppo completo, del quale volete calcolare per esempio la varianza rispetto alla distribuzione di qualcosa, questa formula qui è più adeguata. E per esempio i programmi che usiamo, tipo USINET, usa questa formula qua, perché ragiona sull'intera popolazione. Adesso vediamo se i vostri colleghi riescono a dare fuoco all'auto. Io mi fido ciecamente di voi. No, doveva fare così. Okay. Lui fa l'elettricista. E adesso doveva essere là dentro. Ti dovevano mettere nel genio civile, Maurizio. Guarda chi è, devo dire che ha ma non fa niente, non fa tanto oggi. Sennò per il di questa parte sulla sedia abbiamo in nero solo. Invece, quando si ha a che fare con un campione e i software di analisi tipo SPSS, eccetera, di default usano quest'altra formula qua, ecco perché c'era quella differenza nel calcolo. Si applica un correttivo per il campione. Questo correttivo consiste nel -1. Ora capite bene che su 2000 casi, 4000 casi, non cambi, cioè, i risultati non cambiano, cioè dividere per 4000 invece che per 3999 non è che cambi molto, d'accordo? Però volevo darvi questa specificazione perché le potreste trovare nelle vostra vita, se siete fortunati, diciamo, uno incontra tante formule statistiche nella vita, se è fortunato, le potreste trovare in entrambe queste versioni, va bene? Allora, il programma, tipo quello che abbiamo usato l'altra volta, che io avevo usato per fare il calcolo, usava la seconda. Se lei ricorda, dopo ne avevamo parlato, io le avevo dato questa, dico guardi che col -1 per i campioni, però forse non tutti avevate sentito. E poi, essendo questo un tema che ha sconvolto gli animi, c'è stata grande discussione attorno alle formule, eccetera, allora mi pareva giusto e doveroso, è d'accordo, ho fatto male. Grazie, vi ringrazio per la vostra benedizione. È doveroso perché... Come? È doveroso perché così aggiunge chiarezza a chiarezza che già... No, perché soprattutto perché potreste trovare tutte e due, perché una formula che vediamo oggi per un tipo di centralizzazione usa il calcolo della varianza, ma usa una formula relativa alla popolazione, perché è tarata per la network analysis, ok? Ok. Allora, lo scorso venerdì ci eravamo fermati sull'indice, nel senso che l'avevamo trattato, di centralità globale basato sull'interposizione, non sull'interposizione puntuale, ma sulla distanza o closeness. Quindi è globalmente più centrale un nodo che è più vicino a tutti gli altri, cioè che è a distanza minore da tutti gli altri, d'accordo? Bene, oggi dobbiamo vedere un altro indice che è pure globale. Che vuol dire globale? Vi ricordate la differenza fondamentale tra indice? Adesso, siccome domani vedremo quei saggi, quei saggetti, dico etti perché sono brevi dal punto di vista, ma sono molto importanti, e vedrete come tutte le formule che abbiamo visto adesso, buona parte di esse, vi consentiranno di leggerli con facilità, con scioltezza, perché partono, danno per assodare queste conoscenze, alcune di queste conoscenze. Bene, allora, no, e soprattutto col senno di poi, cioè avendo discusso con voi di questi argomenti in questi mesi, riprendendoli in mano per doverveli bene spiegare domani, mi sono accorto che rispetto ad alcuni punti trattati da questi saggi noi siamo andati oltre come esempi, proprio perché avete una grande esperienza e sensibilità rispetto a questi temi. Quindi è molto importante questo, e io soprattutto ve lo dico perché fra un anno, quando vi dovrete vi porrete la domanda con quale materia piglio la tesi per laurearmi, non vi dimenticate le attinenze con la sociologia rispetto al vostro percorso formativo. Se ne avete trovate, naturalmente, questo periodo, non l'ho ben assoltato che ci sia, ma è chiaro che tutto è opinabile. Allora, questo indice qua è un indice che ci permette di capire quanto un nodo è capace di esercitare la funzione di mediatore. Cioè, abbiamo detto in senso generale, finora siamo tornati molte volte su questo concetto, facendone anche, creando anche una sorta di incorporazione con il nostro gruppo qua di riflessione, il concetto di broker, no? Di brokerage. Però è un modo, perché anche la mediazione si può studiare in tanti modi, ci sono diversi modi per misurare la mediazione. Bene, allora questo indice qua, che è l'indice di centralità globale basato sull'interposizione puntuale, o between is, la studia in un modo particolare. Cosa vuol dire between? Fra due. Questo indice studia quanto complessivamente un soggetto è capace di porsi sui sentieri più brevi che uniscono tutte le altre coppie di nodi, ad eccezione delle coppie che lo riguardano, naturalmente. Quindi, se due soggetti non sono direttamente collegati, cioè se non sono collegati con un sentiero di lunghezza 1, vuol dire che c'è qualcuno in mezzo, che è un punto di passaggio tra loro, ok? Lì, la logica di questo indice è prendere tutti i sentieri più brevi che uniscono due coppie di nodi, tutte le possibili coppie di nodi, e capire quanto loro su questi sentieri è capace di collocarsi l'attore del quale la stiamo misurando. Quindi noi in un attimo sappiamo per ciascuno dei nodi qual è la sua capacità di collocarsi sui sentieri più brevi che uniscono le coppie di soggetti all'interno della sua rete. Okay? Quindi questo indice misura la capacità di ogni attore di collocarsi sui sentieri più brevi che collegano attori non direttamente connessi all'interno del reticolo sociale. Ok? Misura cioè la capacità degli attori di operare come intermediari o mediatori all'interno del loro network di relazioni. Quando, questo lo dico soltanto per chi volesse avere, come dire, una particolare attenzione ai termini che utilizza, quando si parla di mediazione dentro un gruppo chiuso è più corretto il concetto di coordinamento. Di coordinamento. Comunque si tratta di termini, d'accordo? Niente di. Quindi non mediazione, ma No, no, no, vabbè, mediazione è diciamo il cappello generale, no? E se cerchiamo di capire quanto un soggetto media dentro un gruppo chiuso di nodi, allora parliamo di, si può parlare più correttamente di coordinamento, d'accordo? Il coordinatore, che è un mediatore da questo punto di vista. Ma chiedo scusa, la capacità nel senso. In che tipo la cosa? Perché alla fine noi vediamo commentato di fatto che uno si trova in mezzo, come? Adesso vediamo. Questo è il concetto. Piano piano affondiamo il coltello nella piaga e lo giriamo ben bene. Come si fa a misurare questa capacità? È un modo specifico, particolare, no? Io voglio sapere quanto Tizio è capace di mediare tra tutte le altre coppie di Caio e Sempronio che si formano all'interno del suo network. Allora, per ragionare su questo indice iniziamo utilizzando la notazione RJK per riferirci alla quantità di sentieri geodetici, cioè di sentieri di collegamento più breve tra due soggetti qualsiasi, J e K. Vedete che non c'è I. Perché non c'è I? Abbiamo sempre trovato I finora negli indici. No, non c'è I perché I è il nodo del quale poi dobbiamo misurare l'ambito indice, quindi J e K sono le altre coppie di nodi. Faccio un esempio molto, molto semplice. Diciamo che questo è NJ e questo è NK, così per facilitarci la vita, no? Quanti sono i sentieri geodetici che passano tra NJ e NK, che uniscono NJ e NK? Allora, innanzitutto, possiamo farne un altro, guardate. Quanti sono complessivamente i sentieri che consentono di andare da NJ a NK? 1, 3, 2 e 3, ok? Tutti e tre sono geodetici? No. No? Quali sono i sentieri geodetici? Quelli più corti, quelli più brevi? Sono questi due. Allora, in questo caso, se noi volessimo, poniamo che, per esempio che questo è NI, ok? Se volessimo trovare la capacità di NI di unire, di, diciamo, calcolare di essere un mediatore tra le coppie di nodi, dovremmo innanzitutto chiederci fra tutte le altre coppie di nodi, quindi tutte al di là di quelle che lo coinvolgono direttamente, altrimenti non avrebbe senso calcolare la mediazione, dobbiamo contare quanti sono i sentieri geodetici, cioè quelli più brevi che li uniscono. Allora, se ci prendiamo soltanto come esempio J e K, quanti sono i sentieri geodetici? Sono due. In generale, quale sarà la probabilità che ciascuno di questi sentieri avrà di essere percorso da una informazione, da una notizia, da una risorsa, eccetera? Quale sarà la probabilità? Sarà 1 su RJK. Se RJK nel nostro caso è 2, la probabilità che uno di questi sentieri avrà di essere percorso è 1 su 2. Essendo 2 è 1 su 2, d'accordo? Se fossero 3 sarebbe 1 su 3, se fossero 4 sarebbe 1 su 4, d'accordo? Per arrivare a calcolare l'abitudine di un soggetto I, dobbiamo esprimere con la notazione RJKNI il numero di sentieri geodetici tra i soggetti JK, J e K che passano per l'attore I. Se J e K sono questi due, quanti sono i sentieri geodetici che passano attraverso NI? Uno. È uno. Ce n'è un altro di sentiero, è geodetico, ma non passa per NI. D'accordo? Allora voi immaginate di replicare questo ragionamento che qui facciamo avendo dato nome J e K a questi due nodi per tutte le altre possibili coppie di nodi, ok? Tra questi due nessuno, tra questi due nessuno perché sono direttamente collegati, tra questo nodo e questo invece, vedete, abbiamo anche qua, qua abbiamo un unico sentiero geodetico ma non passa attraverso NI. Quindi, una volta che abbiamo determinato quanti sono i sentieri geodetici che passano per NI, dobbiamo circoscrivere la probabilità che questi sentieri siano percorsi rispetto a quelli che passano per NI. Quindi la probabilità che qualsiasi attore I sia coinvolto nella comunicazione tra due attori sarà uguale al numero dei sentieri geodetici tra R, J e K che passano per NI e il numero complessivo dei sentieri geodetici che uniscono questi due attori. In questo caso sarebbe 1 su 2. Ok? Se NI fosse questo però, la probabilità sarebbe 0, perché nessun sentiero geodetico tra J e K passa attraverso questo nodo. D'accordo? Nel nostro esempio è chiaramente semplificata la ricerca, si vede molto chiaramente che la totalità dei nodi R, J, K, dei sentieri N2 e su uno di questi troviamo NI. L'indice di centralità globale basato sull'interposizione del nodo NI è costituito dalla somma delle probabilità del nodo di collocarsi sui sentieri più brevi tra tutte le coppie di altri nodi, escluso chiaramente le coppie in cui c'è anche il soggetto I, perché in quel caso non è mediatore, è direttamente collegato con il nodo. Naturalmente questi calcoli non li dovete fare a mano, perché i programmini li fanno in un attimo, però quando lo usiamo questo indice, poi vi racconto proprio una cosa che è emersa nella riunione telefonica di ieri, per una ricerca che sto facendo, su un effetto perverso di questo indice, che, del quale ci siamo accorti, è appena calcolato, però per dirvi. Quindi non è che dobbiate calcolare, però è importante capire in che modo si arriva a questi indici. Allora, se vogliamo vedere la formula, ecco, questa è la formula CB, questo sta per centralità, questo sta per bitwinness, DNI. Vedete, al numeratore c'è la sommatoria delle probabilità che per qualsiasi coppia di nodi JK che non contenga I, il sentiero geodetico passi attraverso NI. Cioè esattamente una generalizzazione di quello che abbiamo visto nella slide precedente. Basterebbe quello per calcolare l'indice di bitwinness, però quello che otterremmo non sarebbe una misura standardizzata, sarebbe una somma di probabilità, quindi ben superiore magari anche alla unità. Questo fattore che trovate al denominatore serve a standardizzare l'indice, cioè a riportarlo dentro l'intervallo 0,1, e quindi vuol dire che poi possiamo esprimerlo pure in percentuale. Cerchiamo di capire perché. Il denominatore rappresenta il numero totale delle coppie di nodi teoricamente possibile nel reticolo, escludendo il soggetto I. Allora, perché questo valore dovrebbe essere un valore di standardizzazione? Riflettiamo un attimo. Facciamo questo esempio. Ok, facciamo questo esempio. Mi scusi, professore, l'operatore fa le parentesi al divisore. Dove? Nel denominatore? Sì. Adesso vi spiego come si arriva a quel valore là. Io utilizzo un percorso che diciamo ci fa passare dal punto di vista teorico. Mi stavo proprio avvalendomi con la sua autorizzazione di lei per un esempio. D'accordo? Allora, poniamo che ciascuno di noi sia direttamente collegato col vostro collega e nessuno di noi però è collegato con nessun altro al di fuori di lui. Ok? Il sentiero geodetico che collega ciascuno di noi come coppia passa sempre attraverso il vostro collega. Io e lei per comunicare passiamo attraverso lui, io e lei attraverso lui, lei e il suo collega sempre attraverso lui. Ok? Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in termini di numeratore di questa formula, la probabilità che lui ha di trovarsi sui nostri sentieri geodetici è sempre uguale a 1, perché l'unico sentiero geodetico che ci collega, questo valore qua, 1, un sentiero geodetico, passa sempre attraverso lui. Passa attraverso di lui, cioè lui copre tutti i sentieri geodetici che uniscono tutte le altre coppie di nodi. D'accordo? Quindi, se così è, sostanzialmente è come se lui avesse un valore 1 come capacità massima 100% di mediazione per ciascuna coppia di nodi, al di fuori delle coppie che naturalmente lo riguardano direttamente, ok? Quindi il fattore di normalizzazione, di standardizzazione, altro non è che il numero delle coppie di nodi che si trovano all'interno della rete. Perché se lui è capace di avere il valore 1 per ciascuna di esse come mediatore, allora dividendo la sua capacità di mediazione per il numero delle coppie devo ottenere 100% massimo, che è la situazione pratica che io adesso ho utilizzato come esempio. D'accordo? Come che non è? Potrebbe essere, no? Dobbiamo immaginare questo come il massimo della mediazione. Se questo è il massimo della mediazione, per noi è 1 in una scala 0-1 o 100% in una scala 0-100. Tanto più la realtà si discosta da questa situazione, cioè tanto più l'RJKNI è minore di RJK, magari ci sono due sentieri che collegano me e la vostra collega, uno passa attraverso di lui, uno passa attraverso di lei, sui due sentieri lui ha la capacità di mediazione di 1 su 2, cioè del 50%, d'accordo? Ok? In questa ipotesi però di mediazione perfetta fra tutte le altre coppie di nodi, noi dobbiamo riconoscere il massimo, la massima capacità di mediazione all'interno della rete, d'accordo? Allora, come si fa a standardizzare rispetto a questa situazione? Se noi ci pensiamo bene, è come se lui diciamo avesse una probabilità 1 di mediare, quindi il massimo, per ciascuna delle coppie di nodi, quindi la coppia fra me e lei, fra me e lei, fra voi due, fra lei e la sua collega, tutte le coppie, al di là di quelle che lo riguardano direttamente. Quindi se io trovo il modo per misurare quante sono le coppie dentro una rete, ho trovato il denominatore di questa formula, cioè il fattore di standardizzazione. D'accordo? Come si fa? Allora, vi faccio ricordare una formula che avevamo visto qualche tempo fa. In un grafo semplice, è chiaro che qua non ci interessa il verso dei legami, ci interessa contare quante sono le diadi all'interno della rete. Quindi il grafo semplice è un buon punto di partenza. In un grafo semplice, come si determinava la quantità massima di legami, cioè di accoppiamenti, di diadi all'interno? G per G meno 1 e poi, siccome il grafo è semplice, diviso 2. Bravissimi, bravissimi. Diviso 2, ok? Ora, se noi dovessimo calcolare quanti sono gli accoppiamenti tra noi 6 in questo momento, questa formula andrebbe bene, d'accordo? Però abbiamo detto che il broker non può mediare le relazioni che lo riguardano direttamente, cioè deve mediare questa coppia, quella coppia, questa coppia, questa coppia, non le coppie che lo riguardano. Quindi lui nel calcolo bisogna togliere, naturalmente, ecco, mi perdoni per questo ardire, nel calcolo. Quindi cosa vuol dire? Che dobbiamo sostituire G con G meno 1, ok? Dobbiamo togliere a G 1. Se G è 6, questo 6 deve diventare 5 per arrivare al denominatore di quella formula. Allora proviamo a descriverla sostituendo a G, vedete, al posto di G mettiamo G meno 1. Ok? Vediamo cosa succede. Al posto di questo G scrivo G meno 1. Apro la parentesi, questa parentesi qui. A posto di questo G scrivo un'altra volta G meno 1 e naturalmente però devo ricopiare pure questo meno 1 che sta qua, vedete, questo G diventa G meno 1, ma questo meno 1 non è che posso scordarlo da qua, d'accordo? E chiudo per tutto. Sto facendo anche io l'espressione. Esatto. State facendo questi disegnini che collegano le cose? No, sta facendo mia figlia e quindi... Ah, benissimo! Lo sto facendo anch'io, sono in programma quindi... Benissimo. Ecco, siccome adesso noi ci stiamo quasi sentendo bravi per aver fatto questo, non ci dica che classe sta facendo sua figlia, d'accordo? Non lo dica, va bene? Allora, G meno 1 per G meno 2 diviso 2 sarà il numero delle coppie togliendo NI, quello del quale, l'attore del quale vogliamo calcolare la mediazione, vedete? Ecco il denominatore di questa formula. Lei mi voleva fare una domanda prima su questo, adesso l'abbiamo chiarito. Non l'ha chiarito perché non capivo, ma secondo me mancava un operatore, ma invece è chiarito. Ha tutto chiaro, benissimo, perfetto. Avete capito allora come si calcola l'abitudine? È semplicemente il calcolo della capacità che ha un nodo di mediare tra tutte le altre coppie, a prescindere dalle lunghezze dei sentieri, questo non ci interessa, no? Ma si basa proprio sul calcolo delle coppie e della capacità dei nodi di trovarsi all'interno. Questo indice assume valori che vanno da 0, nessun percorso geodetico passa per il soggetto I, a 1, tutti i percorsi geodetici passano per il soggetto I. Questo indice può essere calcolato anche con i soggetti che formano grafi disconnessi, perché invece l'altro indice di centralità globale che abbiamo visto, quello basato sulla closeness, non può essere calcolato se i grafi sono disconnessi. Questo sì, perché questo si fonda sul confronto tra la probabilità che uno faccia il mediatore, quindi non serve la connessione del grafo per determinarla, e il numero delle coppie, non la distanza più breve. Ricordate, il fattore di normalizzazione dell'indice precedente era la distanza più breve, sei direttamente connesso a tutti gli altri nodi. Se non c'è nessun sentiero, il numeratore di questo indice è 0. Per cui, siccome vi dice che può essere calcolato anche per soggetti che formano grafi disconnessi, sì. Se sono disconnessi, cioè, ci deve essere un collegamento. Però se due nodi sono disconnessi, noi possiamo comunque calcolare, quello che si dice lì è che possiamo calcolare la capacità di between-ness di ciascuno dei nodi, anche se questi non sono collegati tra loro, possiamo comunque calcolare la capacità che ha di mediare tra tutti gli altri, tra tutte le altre coppie di nodi, d'accordo? È un collegamento diverso, cioè, non c'è un collegamento diretto, ma c'è un collegamento. Ci deve essere. Quindi non è che sono isolati come soggetti. I soggetti isolati avranno between-ness pari a 0, però la loro presenza varrà comunque per determinare il fattore di standardizzazione. Cioè la loro presenza costituirà comunque un modo per determinare delle coppie teoriche di nodi. Ok? Non è necessario che siano connessi, attenzione! Cioè, per calcolare questo è l'indice di standardizzazione, quindi la possibilità che ci siano dei collegamenti diretti per poi calcolare lui. Col fattore di standardizzazione noi identifichiamo una situazione teorica in cui il nodo è mediatore fra tutte le altre coppie di nodi che non sono direttamente connesse tra di loro. Se tra due nodi, forse adesso vediamo se ho capito quello che vuole dire lei, se tra due nodi non c'è nessun sentiero, rispetto a quei due nodi, il terzo nodo del quale calcoliamo la between-ness non sarà un mediatore. Quindi la sommatoria, torno un attimo indietro. Sì, ma allora è zero. No, ma è zero per quei due nodi lì. Ma anche per il mediatore, perché se non ha nessun collegamento. Le faccio un esempio, guarda. Forse. Ah, se un mediatore è un nodo isolato, viene sempre zero. Questo è chiaro, ok? Se avete 10 nodi isolati, è inutile che calcolate questo indice, d'accordo? Però io pensavo volesse essere dicendo un'altra cosa, che pure si può verificare. Questo è un nodo della rete, no? Rispetto a questa situazione, questo soggetto è mediatore tra questi due. Ora, se la rete non avesse questo nodo, avrebbe un indice pari a 1, perché media è mediatore tra tutte le coppie di altri nodi, che in questo caso è soltanto un'altra coppia, ed è un punto di passaggio obbligato, ok? Se c'è un altro nodo, no, non può essere uno, perché se c'è un altro nodo complessivamente, il numero delle coppie tra le quali questo potrebbe mediare è 1, 2 e 3. Capisce? Siccome tra queste non fa il mediatore, non può essere uno, diventa più basso. Ovviamente diventa più basso, perché è uno soltanto se un nodo è punto di passaggio obbligato. Determiniamo questo fattore qua di standardizzazione, ok? Se fosse così il grafico, sopra avremo 1 diviso 1, cioè 1 al numeratore, e sotto quanto avremo? Avremo g uguale a 3, 3 meno 1, 2, per 3 meno 2, 1, quindi 3. No, avremo 2 per 2, esatto, 2 per 1, cioè 2 diviso 2, cioè 1, ok? Avremo 2 diviso 2, avremo 1 ovviamente al denominatore. Se g diventa 4, se g diventa 34, in che cosa si trasforma il denominatore? 4 meno 1 fa 3, 4 meno 2 fa 2, 3 per 2 fa 6, 6 diviso 2 fa 3. Allora, per avere 1 alla fine, sopra devo avere 3. Per avere 3 sopra, si dovrebbe creare una situazione di questo tipo. Allora, questo nodo sarebbe mediatore anche tra questa coppia di nodi e tra questi altri due nodi qua. Ma se questo è isolato all'interno della rete, non permette a nessuno di farmi da mediatore e in ogni caso nessuno può beneficiare della capacità di fargli da mediatore, non so come rendere l'idea, cioè la vediamo da una parte e anche dall'altra. E quindi il valore da 1 diventa 1 diviso 3. Ok? Qual è il cruccio teorico? Perché lei mi deve dire il problema teorico, d'accordo? Senza passare attraverso questo. Mi faccia l'esempio. Le relazioni, i sentieri che ha quel nodo lì sono 4, e lui non ne ha 4, no, quell'indice lì mi serve per calcolare se lui effettivamente ha 4. Se lui si trova su i sentieri tra altri due nodi, non i suoi sentieri di collegamento con gli altri, non i sentieri di collegamento suoi, quando io determino R sopra, non guardo lui, ecco. Guardo questi due. Questo è un punto cieco, non c'è. Guardo questi due. Esiste un sentiero tra questi due? Sì. Bene. Questo sentiero passa attraverso di lui? Se stiamo calcolando il suo, ci poniamo questa domanda. Sì. Passa attraverso di lui? No. No, io guardavo il nodo. Ah, no. Avevo capito che fosse quello. Che... Cioè, lei il nodo non lo deve guardare. No, guardavo quello lì, allora non riuscivo a mettere insieme i pezzi. Ho capito. Lei deve guardare gli altri due. Di lui calcoliamo, quindi adesso, no? Calando il ragionamento qui, se noi guardiamo, calcoliamo la capacità di questo di fare l'allenatore non isolato, chiaramente quanti sentieri, ci sono dei sentieri che passano, perché uniscono, certo che ci sono, ma quanti sentieri passano attraverso di lui? Zero. RGKDNI, quanto è? Zero, sarà sempre zero, perché noi qui avremo zero diviso qualsiasi cosa, che è zero, diviso qualsiasi cosa al denominatore sarà sempre zero, ok? Se invece calcoliamo la capacità di questo di fare da mediatore e questo non c'è, allora lui è mediatore tra l'unica altra coppia di nodi che viene fuori, quindi là non può che esserci uno come valore, ma se c'è un altro nodo, lui non media tra questi due e non media tra questi due perché questi non sono collegati tra loro, essendo questo nodo un nodo isolato. Ok? Benissimo. Tutto chiaro? Top. Beh, vi dicevo, no? Che ipotizzando un collegamento per esempio rispetto a degli intervalli chilometrici, per esempio dico che due siti sono collegati se si trovano tra i 28 e i 36 km, perché è un giorno di marcia, mi interessa soltanto un giorno di marcia come unità di misura, che cosa viene fuori? L'esempio paradossale che hai messo ieri su una ricerca che sto facendo, viene fuori che due nodi che stanno magari a 5 km di distanza non risultano collegati tra loro perché non raggiungono la soglia minima e risultano mediati da un terzo nodo rispetto al quale tutti e due stanno a 30 km di distanza. Questo avete capito? Cioè, questo farebbe da mediatore rispetto a questi due, che non stanno in cielo né in terra dal punto di vista sostanziale. Allora, se voi costruite una rete, per esempio, che riguarda un range, qualsiasi range sia di variabilità, un pezzo, non da 0 a, ma un pezzetto, come nell'esempio che vi ho fatto, tra i 28 e i 36 km, allora le misure di centralità locale vanno bene, perché io ho il dato su quanti sono i siti che questo sito può raggiungere con una carovana ad un giorno di cammino. Ok? Se vi interessa il cammino fatto da una carovana, che per meno di un giorno magari non si muove nemmeno. Okay? Quindi va bene. Però se prendete in considerazione i collegamenti indiretti, cioè globali, con la distanza oppure con l'amplitudine, si vengono fuori degli effetti paradossali, cioè sbagliati sostanzialmente, non paradossali, sbagliati. Ok? Interessante. Va bene, passiamo ai grafi diretti. L'indice di centralità locale in entrata basato sul grado. Ora, che cos'è il grado di un nodo? Il numero delle intersezioni. Bravissimo. Sì. Nonostante abbia seguito poche lezioni, però si ricorda sempre la... Ah, l'ha letto prima. Ah, si è ricordato le cose. Il grado di un nodo è il numero di linee incidenti con il nodo, va bene? Se il grafo è semplice, abbiamo un grado sostanzialmente, no? Uno può essere il grado, ma se il grafo invece è un grafo diretto, avremo delle linee che escono dal nodo, grado in uscita, e delle linee che arrivano dal nodo. Ricordate, abbiamo visto? Out degree, in degree, ok? Bene, la centralità locale naturalmente, che è la misura, diciamo, normalizzata del grado nel grafo semplice, deve sentire di questa differenza. Quindi avremo una centralità locale di entrata CID, centralità in degree, che è data dal grado di entrata in degree diviso G-1, cioè la quantità massima dei soggetti che lo potrebbero scegliere, e la centralità locale in uscita COD, adesso poi nella slide successiva c'è CODDNI, che è dato al grado in uscita diviso G-1, cioè la quantità massima che questo grado potrebbe raggiungere. Ok, ecco CODDNI uguale il grado in uscita diviso G-1. Veniamo agli indici di centralizzazione, chiudiamo questa parte. Gli indici di centralità servono ad avere delle informazioni sulla connessione dei nodi. Quindi la centralità è una caratteristica del nodo sostanzialmente. Un nodo è più o meno centrale, localmente, globalmente, eccetera. E la centralizzazione che cos'è? La centralizzazione è una caratteristica del reticolo. Sarà una rete ad essere più o meno centralizzata. Quando è che una rete sarà tanto centralizzata? Quando al suo interno ci sarà un centro. E come fa ad esserci un centro all'interno della rete? C'è un nodo che è tanto più centrale rispetto agli altri. Se un nodo o pochissimi nodi sono molto più centrali degli altri all'interno della rete, abbiamo trovato il centro di questa rete. D'accordo? Un po' come se fosse il centro di un'orbita, se potete usare questa immagine e poi evocativa, diciamo così. Quindi, come avviene in genere per determinare le caratteristiche dei reticoli, dei grafi, le otteniamo confrontando tra di loro le caratteristiche dei singoli nodi rispetto alle posizioni strutturali che occupano. Quindi, confrontiamo le centralità dei nodi. Se da questo confronto viene fuori che c'è un nodo molto più centrale rispetto agli altri, allora abbiamo una centralizzazione, dobbiamo costruire un indice che ci misuri un livello di centralizzazione più alto. Quanto più è alto l'indice di centralità di un singolo nodo o di un ristretto sottoinsieme di nodi, tanto più sarà alto l'indice di centralizzazione dell'intero reticolo. E qui vediamo sostanzialmente due indici di centralizzazione. Ecco, il primo che vediamo è, stavate scrivendo? Sì. Il primo, grazie. Prego. È l'indice di centralizzazione di Freeman. Questo Freeman è quello di cui avevo parlato quando abbiamo parlato di un libro sullo sviluppo. Vi ricordo che ho avuto la citazione sul sociologo che non studia le relazioni, che è come il biologo che fa passare un bue dentro un tritacarne e poi analizza soltanto i pezzettini, perdendo complessivamente, no, non ve la ricordate, questa, avete rimosso questa immagine, ed era una citazione tratta da, a sua volta, una citazione di Alan Barton, però che io ho preso nel testo, un testo di Freeman, che ha scritto recentemente un libro su proprio lo sviluppo dell'analisi. E Questo Freeman è molto importante, un sociologo molto importante che ha inventato delle misure, oltre ad aver lavorato a dei programmi come il Shine. Allora, la centralizzazione, secondo questa impostazione, si calcola confrontando che cosa? La somma degli scarti reali tra la centralità massima rilevata e tutti gli altri indici di centralità empiricamente osservati. Quindi misuriamo la centralità, per esempio il grado o la centralità locale all'interno di una rete, pigliamo la più alta e facciamo la somma delle differenze tra, quindi gli scarti, tra questo valore e tutti gli altri valori di centralità. Quindi avete già trovato, se io qua tracciassi una riga, vediamo, questa è proprio adesso immaginazione socio-statistica, se io qua tracciassi una linea, avremo trovato il numeratore di un rapporto, e quindi tanto più è alta questa differenza, tanto più deve crescere l'indice di centralizzazione. Però è importante, come abbiamo visto ultimamente, che io questo valore lo riporti all'interno di una, diciamo, di un range che mi permetta di confrontare situazioni diverse, cioè lo devo standardizzare. Quindi se io qua tracciassi una linea è come se avessi di fronte una divisione tra un numeratore, che è la somma degli scarti reali tra il più alto e gli altri, e la somma massima, denominatore, teoricamente ottenibile degli scarti tra la centralità teoricamente più alta e tutte le altre. Se volessimo immaginare una situazione grafica che può rispecchiare il denominatore di questa formula, potremmo probabilmente pensare al grafo a stelle. Qui abbiamo la somma massima teoricamente ottenibile tra la centralità teoricamente più alta dentro questa rete, il nodo a grado pari a 4 che è collegato con tutti gli altri nodi, e tutte le altre che devono essere naturalmente, avere la somma massima teoricamente ottenibile, devono essere tutti i nodi che hanno soltanto un legame col nodo più centrale, non possono essere isolati, perché se sono isolati non è centrale neanche il nodo del quale lo stiamo valutando. Quindi se noi troviamo una situazione concreta, fatta in un certo modo tra 5 soggetti, per esempio così, e la confrontiamo con questo, dobbiamo ottenere un valore che ci dica quanto è centralizzato il network. Tanto più una rete tenderà a presentarsi così, tanto più alto deve essere il valore di centralizzazione, al massimo 1 naturalmente. Okay? Tanto più invece tenderà a presentare una somma degli scarti reali pari a 0, quando è che si ha una somma degli scarti reali pari a 0? Quando il grafo è un grafo vuoto, oppure quando il grafo è un grafo completo. Se il grafo è un grafo completo, tutti hanno ottenuto la quantità più alta e avete la somma degli scarti che dà sempre 0, perché i nodi hanno tutti lo stesso livello di centralità. O anche un grafo a ruota. Ecco, ci possono essere diverse situazioni in cui i nodi hanno tutti lo stesso livello di centralità. Bene, questo è l'indice di centralizzazione di Freeman. Guardate che tanto la formula la trovate sul libro. Quando vi potrei matematica. Pagina 133. Però se sta capendo, e mi pare che lei stia capendo, questa è una grande rivincita, anche nel confronto di quel 3, che era 6 su 4. Però utilizziamo la scala. Una scala da 1 a 4. Stava 17 all'esame. Pagina 193, trovate la formula, no? Naturalmente nessuno, se volete io posso anche chiedervi come domanda d'accesso all'esame orale la formula di presentare una. Vuole che lo proponga? No. Ecco, dica. Anche no, da 1 al 4 quando il valore massimo è 4, la scala è 4. È andata bene. E cosa trovate al numeratore? Guardate che questo è. Prima quando io vi ho detto, scusate, non mi dietro, traccio una linea qua, è esattamente la linea che trovate lì, che divide il numeratore e il denominatore. Sopra c'è trasformato in formula quello che abbiamo scritto al punto 1, quindi non dovete, cioè, se lo dovete scrivere, lo scrivete. Cioè, sopra c'è la somma della centralità effettivamente più alta trovata, degli scarti, scusatemi, tra CX, P, asterisco, vedete che è la centralità più alta trovata in tutte le altre centralità all'interno della rete, e sotto c'è il valore massimo che questa grandezza può assumere, quindi tendenzialmente un grafo, se, come se il grafo si presentasse così, è come se voi comparaste la situazione che trovate con un grafo a stella, ok? Tanto più è vicino al grafo a stella, tanto più alta sarà la centralizzazione, cioè 1 o 100%, tanto più se ne discosterà, tanto più sarà 0, d'accordo? Sarà vicino allo 0. Vi ricordate quando dicevamo produciamo dei modelli teorico-deduttivi? Cioè trasformiamo un ragionamento che è appunto questo, come determiniamo, come si misura la centralizzazione, in una formula che riguarda le reti, ok? L'indice assume valori che vanno da 0, tutti i punti del grafo hanno lo stesso indice di centralità, grafo a ruota, a 1 un solo punto è il valore massimo di centralità e tutti gli altri sono periferici, grafo a stella. Ok? Bene, bene, bene. Un altro indice di centralità. In un contesto, allora, calcolato l'indice di centralità di un nodo. Sì. È definito che questo è un nodo, praticamente, il nodo più importante, quello che riassume, cioè che ha più contatti con gli altri. Sì. Vedendo il numero massimo di contatti che ci possono essere per vari nodi, io definisco questo che percentuale, cioè che percentuale ha questo nodo all'interno di tutto il sistema, di tutto il territorio. E questa è la centralità. La centralità. Sì. Quindi a un certo punto si può anche desumere che non è che deve essere, cioè che si può agire, cioè poi si può fare altre considerazioni. Uno, siccome questo qua ha un indice di centralità che potrebbe essere il 20% di collegamenti possibili, sì, in questo momento è un nodo centrale, ha un indice di centralità molto alto, però potrebbe esserci delle alternative. Qualora io risulta che questo nodo ha un 80%, è più difficile creare un'alternativa a questo qui che riassume tutti questi collegamenti, che ha contatti con tutti. Un sostituto, intende lei? Potrebbe essere, certo, cioè, perché poi c'è un certo che è più difficile, naturalmente bisogna sempre capire in che legame sta questa situazione strutturale con lo scopo che deve raggiungere il gruppo che voi state organizzando. Perché ci sono dei gruppi che funzionano bene, se si centralizzano, funzionano, vuol dire raggiungono lo scopo. Quando cambia lo scopo, magari la centralizzazione non va più bene, quindi sarebbe bene. Non serve più un leader, ma serve comunque un'organizzazione vasta. Evitare che ci sia un punto di riferimento, anche perché tenete presente che un gruppo che deve essere coordinato, che diventa molto centralizzato, produce de facto una figura che tende ad affiancare e addirittura a sostituire il coordinatore esterno, l'organizzatore del gruppo. Ok? E naturalmente perché lo sostituisce? Perché a differenza dell'esterno, che potreste essere voi, che arrivate lì e organizzate, a differenza dell'esterno, è interessante il saggio che poi vedremo di Contractor e altri, perché parla proprio di tipi di reti che si trovano dopo un evento catastrofico, no? E come questi cambiano nel corso del tempo. Perché la persona che lo coordina dall'interno, cioè che molto magari ha un'elevata abitudine, oppure il soggetto più centrale, eccetera, a differenza di voi, ha un rapporto diretto, espressivo con queste persone. E quindi è molto facile che vi sostituisca. Allora uno, diciamo, deve capire se questa figura aiuta oppure no rispetto allo scopo che stiamo. Ecco, questo è un indice di centralizzazione che appunto si basa sul calcolo della varianza. È simile, anzi, visto, cioè, noi prendiamo un indice di centralità, qualsiasi, anche l'indice di centralità locale, calcoliamo la media, ok? che c'è all'interno di una rete, quindi sommiamo i nostri indici di centralità locali, li dividiamo per quanti siamo e calcoliamo l'indice di centralità locale basato sul grafo CD medio, ok? Se sommiamo gli scarti dei nostri, i quadrati degli scarti dei nostri valori, buonasera, buonasera. Se sommiamo i quadrati degli scarti se sommiamo i quadrati degli scarti dei nostri valori rispetto alla media, naturalmente otteniamo una misura di quanto siano distanti questi valori rispetto al valore medio. Più questi valori saranno distanti rispetto al valore medio, maggiore sarà la probabilità di trovare all'interno della rete alcuni o un nodo molto centrale e altri nodi che sono molto periferici. Tanto più staranno invece attorno alla media, tanto più potremmo dire che i nodi sostanzialmente sono uguali rispetto alla centralità e quindi il grafo non deve essere centralizzato. Dividete questa grandezza per G, che è appunto il numero dei nodi, e calcolate la varianza degli indici di centralità. Questo valore è una misura di centralizzazione, proprio per come funziona la varianza. Okay? Come vedete c'è G, non G-1, perché abbiamo a che fare con l'intera popolazione, che per noi è il network, d'accordo? Non con un campione. Ma perché non è prefissato? Che cosa non è prefissato? Il numero? Cioè perché riguarda la popolazione? No, nel senso che a noi interessa la nostra popolazione di riferimento, l'universo che guardiamo è il gruppo delle 20 persone che stiamo organizzando, ci interessa sapere quel gruppo là quanto è centralizzato. Non usiamo quel gruppo per avere un'informazione su una popolazione più ampia di soggetti, ci interessano quelli, quindi il valore, la somma dei quadrati delle differenze, perché se non facessimo, se non sommassimo i quadrati avremmo sempre 0 come somma delle differenze, quindi il numeratore della varianza deve essere diviso per C, che è il numero dei nodi, perché questo è il numero che ci interessa per il momento. E in effetti la varianza, le varie varianze che voi trovate, per esempio quando calcolate l'indice di centralità locale in un programma, sotto vi vengono fuori anche molto spesso le misure di distribuzione, le statistiche descrittive, e c'è la varianza, c'è la variazione standard, ma è calcolata su G, cioè sul numero complessivo di nodi. Ok, è chiaro? Quindi è semplicemente la forma della varianza dove invece di un valore qualsiasi della variabile diventa la centralità. Calcoliamo la media, somma delle differenze, più è alta questa somma, più ci saranno alcuni nodi tanto sopra la media e altri tanto sotto la media, e quindi ci sarà un centro all'interno della rete. Tanto più è bassa, tanto più tutti saranno uguali attorno alla media, cioè avremo una media dei tre redditi di 500, 500 e 500 euro per intenderci, d'accordo? Ok. Che mi ha portato lei qua? Io l'ho portato lo stesso file dell'altra volta, solamente che ho messo sulla parte di sinistra le associazioni e sulla parte sopra gli eventi. Ma ce l'hai il file però? Sì, è stato un bel lavoro. Ho invertito i parametri sul mio almeno le cifre. Quindi quadra anche dal punto di vista matematico, però. Allora facciamo così, siccome adesso siamo arrivati alla fine di questa parte, se voi vi pigliate 5 minuti di pausa e lei mi dà il file, io intanto lo trasformo in. Se qualcuno vuole vedere come faccio può assistere, eh? D'accordo? Faccio con due computer qua. Qui trovate? Se no non faccio comunque vedere. Non mi preoccupate. Grazie. Spacciatore di chiavetti. Mi sarei sparata, mi piace un numero, non ho capito più un cazzo. quello che tu senti. Un sabato sei riuscito a seguire il tipo. Non so perché l'ha chiesto così. Forse ho preso un dei 20, grazie che sia stato il format. Perché io il format che non credevo io. Abbiamo chiesto. Perché io ce l'ho su un format magari che non potevo. che sono belle concatenate, fatte in un'altra maniera, magari. Adesso ce la faccio con... Comunque secondo me magari le devo dei parametri. Poi gli eventi come si chiamano? Io ho messo ricerca, scuole, manifestazioni, culturale. Presenza o assenza di partecipazione, poi al di là di quanto va bene, va bene, poi valiamo il concorso per fare le altre prove, se adesso fai un allenamento. Sì, perché ho tutti i programmi. No, questi sono programmi che sono. Esatto. Aspetta un attimo, per scusa Paolo, tanto se non si fa. È uscito? Eccolo qua. Beh, insomma, è una rete bella paciocca qui, eh? Non so. Cosa significa bella paciocca? Adesso vi faccio vedere quello che ho fatto. Che riusciamo a fare qualcosa o. Beh, una rete, allora questa è la matrice di. È la matrice di. Abbiamo le sei associazioni e il modo in cui si incrociano dentro, dentro questi eventi. Dopodiché a partire da questa matrice noi creiamo, adesso facciamo il percorso assieme, a partire da questa matrice creiamo una matrice che ci dica se all'occasione almeno di un evento questi nodi sono entrati tra di loro in relazione. Ci siete tutti? Venite, adesso facciamo da capo. Bravo, questo era l'unico modo. Io lo sapevo. Vediamo. Ma questo è no, ma no, ma c'è il capo. Sì, il capo, sì. È uscito il video? Sì, adesso sta prendendo il momento. Allora di diventare il mio. Esatto. Dopo le no, sono stamattina. Ma compra a casa. Allora dove è il video? Ma sa Michela. Eccomi. Guarda, se volete, mi dà. Se volete il giorno 11, io dopo male lo dico. Il giorno 11 dicembre, alla Vanguardia c'è un convegno che parlano della caduta dell'anno. 11 dicembre. Lo so, infatti volevo dirlo a Milano. Ed è aperto a tutti, sarebbe. È andata la città? Sì, parlando i parenti, le vittime, la caduta fortunata, è un evento emergenziale comunque. Ah, è collegata lì? Allora. No, ma dai, non state smontare. Ma sì, smontiamo tutto. Dovrebbero portarci un cavo. Sì, ma poi lo chiamo io. Ma siamo, secondo me riusciamo a vederlo, adesso vengo io a sedermi là. Sì, quindi era oggi quello del ciccio, no? Anzi, la, può fare la... Il ciccio. Se lei lo stacca dalla... se lo stacca... staccate questo dal computer. Così abbiamo usato questo... Vediamo su quel video lì, lo vediamo. Si può fare? Sì. Allora, quello che bisogna saltare. Allora, a questo punto lo può attaccare dalla macchina. È quello, no? Fuori forse c'è anche la presa che va sul dietro. Usiamo questo modo da qua. Che va al proiettore. No, no, ma... di dietro forse c'è anche la presa che va al proiettore. Ma posso dire una cosa? Scusi, ma se noi attacchiamo il suo video qua... Ma è chiamato un cavo. No, allora riprendiamo quel cavo e lo mettiamo qua. Sì, sì. Quello va saltato per lì. Chi è che ha detto spaccare tutto? Lei? Lasciate tutto, staccare, lo so. Però era, c'era quella bis. No, sì. Si può, perché voglio dire uno cosa deve essere. Io non so se vuoi fare. Venite qua, venite un secondo qua, si potrei. Venite qua, usiamo il monitor grande qua. Ci mettiamo lì qua. No, ma se abbiamo il monitor per il lavoro di lì, quindi vediamo qua. Ecco, allora praticamente che cosa ci ha dato? Il vostro collega ci ha dato. No? Adesso lasciate stare il valore, perché i valori dobbiamo essere diversi. Madonna! Vediamo intanto anche a quello che è arrivato in sì. Allora, con questo programma qua, noi abbiamo creato una matrice, vedete? Questa è una matrice di... affiliazione. Abbiamo... Ma perché se no, però ho dovuto questa è allora, questa è una matrice malata, in base a quello che ha detto la vostra collega adesso, dove abbiamo le sei associazioni sulle righe e sulle colonne abbiamo messo sì o no alla partecipazione ad alcuni eventi, ricerca, scuola, che cos'era? Manifestazioni. Manifestazioni culturali, esercito, esercitazione, turismo, disabilità, treno, eccetera. Ciascuno di questi eventi praticamente è stato utilizzato come un evento, come una possibile occasione di contatto. Ok? Allora noi pigliamo questa matrice qua e naturalmente che ci facciamo con questa matrice? La dobbiamo trasformare e anche niente, spegniamo tutto e ce ne andiamo, però se nel caso uno fosse costretto, la dobbiamo trasformare in una matrice di adiacenza. Cioè una matrice da bimodale, two mode, deve diventare unimodale, one mode. Come si fa? Data affiliations, vedete, two mode to one mode, e prendiamo le righe. Ok, potremmo anche prendere le colonne e fare una matrice dell'incrocio, guardate, eventi con eventi, non complichiamo. Noi dobbiamo sapere se queste associazioni entrano in contatto tra di loro. Ok, questa è la matrice di affiliazione che viene fuori, vedete, A, B, C e D, e A, B, C e D sulle righe e sulle colonne. A complessivamente partecipa a quattro eventi e questi quattro eventi li condivide con se stessa, ok? Quindi su questa diagonale vedete a quanti eventi partecipa ogni associazione, B partecipa a tutti e 16, ok? E così via. E poi con quante associazioni condividono più eventi. La prima cosa da fare qual è? Dobbiamo eliminare questi valori sulla diagonale che non sono ammissibili, d'accordo? Quindi pigliamo questa matrice e settiamo la diagonale a 0. Ok? Questa è la nuova matrice di adiacenza. Che tipo di grafo potremmo generare da questa matrice? Si chiama, qua si chiama prova two mode new diag. Tipo di grafo? Che tipo di grafo possiamo generare? Intanto, come vedete, è simmetrica rispetto alla diagonale, no? Giusto? Sì, sì, sì, sì, sì. Che tipo di grafo possiamo generare a partire da questa matrice? Semplice? No? Un grafo pesato. In base a quanti eventi hanno condiviso assieme. Ok? A e, scusatemi, B e F stanno in 10 eventi assieme contemporaneamente, quindi hanno un legame più forte, se vogliamo valutare l'intensità, lo possiamo prendere in considerazione, ok? Bene, se vogliamo prenderla invece come grafo semplice, cioè ci interessa trasformare qualsiasi valore, sia 1, cioè, diverso da 0, sì, in no? Un 1, esatto, allora... Partecipato o meno. Esatto, esatto, sì, no? Dicotomizziamo. Ecco qua, questa è la matrice di adiacenza che abbiamo ottenuto adesso. Sì. E comunque la diagonale rimane sempre a zero. Si può disegnare questa matrice? Certo che si può. Qui vedete c'è NetBlow, sì, lo potete scaricare anche da solo. Prendiamo la matrice di adiacenza che abbiamo appena salvato. Gata! Mette anche la direzione. La direzione la mette di default, ma siccome non ha senso nel nostro caso che ci sia, noi la togliamo. Ok? Potete spostare, eccetera, eccetera. Naturalmente ha messo F al centro perché è l'attore più centrale. è complessivamente 3, 4, 5, però attenzione perché F, pur dandosi molto meno da fare di B, ha comunque grado pari a 5, cioè ha lo stesso grado di B. Quindi dal punto di vista strategico ha partecipa a degli eventi che gli consentono di stare in collegamento con la stessa quantità di nodi con i quali sta in collegamento B. Cioè, anzi, però. Sì, ma dicevo anche C, è un grafo molto, da questo punto di vista dicevo, è molto corposo, ecco. Cioè, possiamo anche ridere. Se analizzassimo questo grafo dovremmo spiegare il discorso di delle situazioni che hanno più relazioni con gli altri. Sì, più che altro forse anche ci sono i numeri delle partecipazioni. Sì, non so bene. Però per esempio l'associazione B e l'associazione F, cioè normalmente che hanno presi proprio di più di delle che ha solo 3. Sì, sì, perché uno fa 390 sì. Volte 89. Ma se voi guardate. Ma semplice sì. Non è che chiarifica qua. Guardate. Noi qua possiamo calcolare il grado di questa rete. Quindi adesso sto facendo un'altra cosa ancora. Sempre utilizzando la matrice quale? Quella decente. Quella per il grafo semplice, esatto. E vedete abbiamo il grado 4, 5, 5, il numero di linee incidenti con il nodo, e questa è la versione normalizzata, cioè la versione della centralità locale in entrata. Ok? Quindi noi cosa dovremmo dedurre? Probabilmente E e F sono quelli che hanno più relazioni, perché no, anche il 5, cioè 5 e 1. B, C, E e F arrivano a un grado pari a 1. Ok? Qui sotto avete il valore della centralizzazione, che è del 10%, se preferite 0,1 di scala 0,1. E naturalmente con quanto sarà la densità di questa rete? Sarà piuttosto consistente. Calcoliamo la densità della rete. Siccome ci sono 300 file che hanno quasi lo stesso numero, potrei aver aperto un altro. Dovrebbe essere questo. Ecco. Densità 0,933. Adesso per divertirci un po', perché una rete del genere, voglio dire, ha una densità troppo elevata. Per essere esattamente. Facciamo così. Apriamo questo e togliamo qualche evento, tipo l'evento neve, che effettivamente coinvolge tanti nodi. Io toglierei la neve, gli incidenti. Di ricerca è il primo. E anche ricerca. Vediamo cosa si fa. Questo soltanto per avere un grafico un po' più divertente. Eccolo qua, vedete che adesso diventa già un po' più interessante. interessante. Certo, ecco, proviamo a vedere se ci sono delle clip dentro questa rete. Guardate la clip. Sì. Sotto qui. Vedete? Minimum size 3. Ecco qua. Ce n'è, sono qua. Ecco qua abbiamo praticamente due click, una click formata da A, B e F e una da B, C e F. Le click sono complessivamente formate da quattro nodi, ok? Qui abbiamo la partecipazione delle click, la probabilità che le click siano membri di ciascuno di questi due nodi, ma ancora più interessante qua sotto, vedete, è la co-membership, cioè quante membership ciascun nodo condivide con gli altri. Sulla diagonale trovate sostanzialmente il numero di click a cui ciascun nodo partecipa, però negli altri due esempi B e E e B ed F stanno in due click assieme, naturalmente anche F lo costa. B e F sono uguali. Ah no, sono uguali. Qua sotto vedete c'è la quantità di click a cui ciascuno di questi nodi appartiene, il livello più alto, 2. Poi c'è sostanzialmente 1 e poi 0, vedete? E questi sono dei valori calcolati sulla, è una sorta, diciamo, una sorta di cluster analysis sulla somiglianza che hanno i nodi. Qui abbiamo click by click actual membership, cioè quanti attori condividono tra loro le click 1 e 2. In effetti vedete che ci sono 3 attori che si trovano in tutte e 3 queste click, B e F. B e F, qua B e F. Sono A e C che sono quelli un po' più disconnessi. No, infatti se guardi. Proviamo a calcolare C hanno anche meno la betweenness, ci sta, proviamo a vedere cosa viene fuori. Se l'avessi fatto vedere prima, nessuno. Ecco, vedete, questa centralizzazione qua è calcolata rispetto all'indice di Bitwins. Voi potete usare qualsiasi indice di centralizzazione. 42 sarebbe? E di livello di centralizzazione. Vedete qua? Qui abbiamo la Bitwins più elevata, cioè il nodo B, è del 43%. Guardate B. Allora, questa rete, rispetto alla densità, rispetto alla centralità, non ci diceva niente di che, però se calcoliamo l'indice di Bitwins, vediamo che c'è un nodo che non è un po' più mediatore degli altri, ma è infinitamente più capace di mediare, ed è il nodo B. Poi c'è il nodo F, e questi sono i numeri progressivi che hanno noi abbiamo nella rete, guardando la quantità della funzione. Questa è la varianza, vedete, la varianza dell'indice di Bitwins, e questa è la varianza della misura centralizzata. Per questa varianza si applica la formula con G, con il numero complessivo di nodi. La centralizzazione che abbiamo visto per seconda, basata sulla varianza, è calcolata a partire dal valore medio della centralità locale di questi nodi. Quindi per capire qual è qua, io apro degree, il grado, dove mi verrà fuori anche centralizzato. Qui prendo il valore di questo bis, ecco qua, vedete C non è di certo il nodo che ha, C era quello che aveva la B, la Bitwins più elevata. Allora guardate qua, aspettate, ve ne faccio vedere una con le misure anche di descrittive, così vediamo come si muove l'indice di centralizzazione. Dov'è il bis? Guardate, allora 8 bis, si sentiva. Grazie. grado normalizzato in forma percentuale qua, vedete? Questa è la centralizzazione rispetto a questo indice ed è il 50%. Poi abbiamo, vedete qua sotto, questo è l'indice di centralità locale basato sul grado, il riportato in misura, misura percentuale, ok? La misura che abbiamo visto prima è la varianza. Questa la possiamo considerare una misura di centralizzazione. Però quella misura lì, se guardiamo quei dati che ci sono, e che non ci ho messo mai 1,0. Naturalmente, scusi, possiamo guardare sia quella relativa alla, alle percentuali, che la varianza relativa al grado. È chiaro che se dovete confrontare reticoli diversi, dovete guardare questi valori qua, perché sono normalizzati rispetto alla quantità dei, dei nodi. Che stavo dicendo? Che stavo dicendo che se noi guardiamo, noi abbiamo B, F, E, sì, E è lo stesso identico numero di D, però D è l'ultimo posto nella prima media. Qua. Sì. Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è lo stesso numero? Sì, qui ho lo stesso valore. Però forse sono più bassi. Però una, sono diverse le nozioni. No, questo è quello che diceva, sai che significa? Avete capito la domanda del vostro collega? Qui abbiamo due associazioni che hanno, complessivamente partecipano alla stessa quantità di eventi, che più volte possono partecipare a ciascuno di questi, no? E dice però, io qui sono uguali, evidentemente loro guardano soprattutto la, la, la somma, però se guardiamo le, come si sono, grazie a questi eventi, come si sono connessi con gli altri, troviamo che ha avuto più, più connessioni. Quindi voglio dire, è più strategico utilizzare la stessa quantità di impegno per 13 eventi in un modo invece che in un altro. Strategico rispetto a che cosa? Alla produzione. Si vede, allora posso anche dedurre, io posso dedurre ragionando in un'altra maniera, dire che la mia associazione E, essendo più elevata di D, ha, ha fatto eventi con più insieme a più altre associazioni rispetto a E. Però ha più legami. Ha avuto più legami. La somma, questi valori qua, anche quante volte hai partecipato agli eventi, ok? Il modo in cui tutte queste volte le ha utilizzate, in questo caso B, gli ha garantito di collaborare con 5 altre associazioni. Il modo in cui le ha utilizzate D, gli ha garantito di collaborare soltanto con una associazione, che probabilmente sarà B. Vogliamo scommettere che è B. Ma esatto, ma mentre, E, avendo lo stesso numero di D, come numero diciamo di eventi totali, ha collaborato con più associazioni, ha collaborato con certo. Quindi, e quindi per me la situazione D è una situazione che partecipa di più ad eventi con altre persone. È una cosa certa. Questa è B. Quindi questi hanno, hanno lo stesso sforzo in termini di, no, di quantità di partecipazione, solo che la posizione di B è completamente controllata da B. B esercita la funzione del mediatore, questo non so di quale situazione stia parlando. No, no, io parlavo di quello del mediatore. Questo è torna nella realtà che B abbia questa particolare capacità. Cioè, una situazione che è particolare, ha più relazioni, naturalmente qui bisogna togliere le frecce, questo è un grafico simple, cioè si fa qua questo properties e qui si rendono invisibili i vertici, ok? Questa è la cosa speciale. Va bene, che bello questo, qua è un bello ciclo per dire, sì, ma questo è un po' di bisogna capire a che cosa servono queste, cioè è qualcosa del censimento, political information, lascio aspetta che chiudo, questo poi la già distribuì, già queste cose le qualcosa lascio la storia, sì. Comunque, se avete qualche, qualche rete da portare, portatela, che proviamo a fare la, tutte le nostre prove. Allora, comunque avete visto che dentro i vari menu, intuitivamente, trovate proprio le cose che abbiamo detto qua. Quindi per imparare a usare quel programma o altri simili, basta, come si dice tecnicamente, smanettarci un po', esatto, vedere, cercare i valori e poi ritrovate dentro gli output quello che abbiamo detto, quello che abbiamo detto. Naturalmente, se fra 2 anni, 2 giorni, 5 mesi, 5 anni, eccetera, vi viene in mente di provare a farlo e vi serve una mano, io, la mia porta è sempre aperta, eh. Se posso, ve la do, se riesco ad aiutarvi, nel senso che capisco quello che state facendo, vi aiuto molto volentieri a rendere pratico lo strumento. Ma una cosa del genere è stata fatta per caso in una popolazione tipo quando si fanno i censimenti? No. Per avere un'utilità, nel senso. E negli Stati Uniti c'è il General Social Survey ha previsto, credo, delle domande con la network analysis di questo tipo. In Italia no, non ci sono domande che usano, che permettono di fare queste raccolte. Era magari per capire, non so, quante persone hanno un grado di studio, oppure per domani per progettare, non so, degli eventi all'interno di un... Abbiamo fatto noi in UPRIN, come l'Università di Verona, una ricerca su un campione rappresentativo utilizzando queste tecniche. Però io non ci sono altri esempi di questo tipo in Italia. Siamo stati noi, l'abbiamo prima fatto su Verona con un PRIN, poi il PRIN successivo sull'Italia. Adesso proveremo a chiederne un altro, vediamo un po' se lo finanziano, c'è il bando aperto in questo momento. No, perché costano, naturalmente costano tutte le ricerche. Va bene, allora, come si. No, face to face, no, telefonicamente. Abbiamo stato un campione, non potendo fare film, abbiamo esternalizzato ad una società di ricerca dandogli l'incarico, ne abbiamo fatto l'impostazione per fare loro, hanno estratto dei soggetti, abbiamo formato gli intervistatori sono andati a raccogliere i dati prendendo appuntamenti. Sì. No, non si può fare. Tenete poi presente che se utilizzate l'intervista face to face ci sono anche altri problemi nell'area del campionamento, e se voi vi accontentate delle città le interviste hanno un costo, se volete anche il caso nel piccolo comune montano bisogna pagare la trasferta all'intervistatore, cioè sono ricerche che possono costare tantissimi soldi, ma nel vostro caso problema non c'è, perché ce li avete tutti lì, ok? E siete anche nella condizione di poter raccogliere delle informazioni e di usare queste tecniche, non avete il problema, cioè avete tanto meglio, però di avere, come dire, un'informazione su un campione rappresentativo, ma vi serve saperlo rispetto a quello che avete di fronte. Questo però si potrebbe ribaltare una cosa. Se hai in mente una cosa del genere, da attuare, non so, a livello di gruppi che conosciamo, si potrebbe anche provare a farlo su tutti i gruppi. Ma questo dipende da quanto serve il campione rappresentativo, quello deve essere vasto. No, ma cioè, serve che ci sia un obiettivo per farlo. Ma se poi avete un obiettivo che è a livello comunale, non so, di 1000 persone, di 2000 persone, o di un gruppo che può essere la protezione civile o del genere, si può parlare. Cioè, ma voi non potreste, per esempio, adesso farlo con lei, visto che si è esposto così, fare una bella tesi finale, la potrebbe fare studiando questo tipo di gruppo, il gruppo che inventa lei adesso. No, ma anche se si laurea con un'altra materia, queste tecniche non è che hanno il copyright del mio corso, eh. Potete usarlo stesso, anzi. Lei dice che prendere un anno qualche tempo. Ma certo, voglio dire, sarebbe molto interessante. Sicuramente, cioè, se fai l'idea di tesi è quella di prendere anche poi più materie all'interno, quindi certo. Prendere sicuramente. Allora, la mia ambizione è stata quella di darti una formazione, se tiriamo anche un po' le fila, no, delle conte, le somme, di darvi degli strumenti che voi potete usare, se vi servono e li ritenete utili, li sapete usare, che sono delle abilità, al di là delle competenze di carattere teorico. Quindi, prima avete subito riconosciuto il tipo di... Chiaro, bisogna prenderci un po' di confidenza, no? Però avete subito riconosciuto il tipo di matrice, il senso che c'era nella rappresentazione. All'inizio ci vorrà un po' più di tempo e io vi posso aiutare. Lei porti quell'informazione alle associazioni. Vedete qua, Però potremmo fare una cosa, quello che dice lui, potrebbe essere quella che potremmo entrare in esame, cioè i soggetti suddivisi per età, per titolo di studio, per una serie, che alloggiano all'interno di un campo di sfollati. Certo. Quindi su questa cosa qua potremmo anche capire che tipo di esigenze potremmo avere bisogno. Domani vedremo un modello di analitico che si usa con tutte queste tecniche proprio nella situazione che lei adesso ha raffigurato e in altre simili. Ok? che è proprio l'applicazione, ma però le misure sono queste, le abbiamo già viste. Adesso però io vorrei farvi vedere qualche altra cosa che prima di salutarvi, ed è il modo per ripartire il grafo. Ora, noi abbiamo già visto dei modi per, diciamo, analizzare la coesione sociale. Dal punto di vista generale, le strade che possiamo prendere sono due. I criteri per ripartire il grafo, cioè trovare sottogruppi, porzioni di grafi. L'analisi dei reticoli consente di individuare gruppi e di scomporre i reticoli in sottogruppi rilevanti. Ok? Per fare questo sono molto importanti due concetti: il concetto di coesione sociale, adesso vedremo perché, che tipo di strada ci fa prendere questo concetto qui, e il concetto di affiliazione, che è proprio quello che abbiamo appena usato per creare delle reti tra le associazioni di cui ci ha parlato il vostro collega. A partire da questi concetti possiamo individuare dei criteri oggettivi di scomposizione di un gruppo in sottogruppi. Quindi il lavoro che dobbiamo fare è scomporre il gruppo in sottogruppi, utilizzando i criteri collegati all'analisi della coesione sociale oppure all'analisi delle affiliazioni. Ok? Bene. Vediamo. Il criterio della coesione sociale. Noi abbiamo già visto dei tipi di sottogruppi. Quali? Abbiamo visto il componente, massimi sottografi connessi, cioè tutti i nodi che costituiscono un componente sono tra loro raggiungibili, e abbiamo visto le click. I nodi non solo sono raggiungibili, ma sono tra loro a distanza nella click, l'abbiamo vista anche adesso, ne erano emerse due. I nodi sono tra di loro a distanza 1, sono direttamente collegati dentro la click. Ok? Se questa è una rete, questa è la click. I nodi sono tra di loro direttamente collegati. Ok? Che succede con il concetto di click? Succede che se una rete è fatta diversamente da quella che abbiamo appena analizzato con i dati del vostro collega, ma è una rete con dei collegamenti molto deboli, cioè i nodi sono scarsamente collegati all'interno, eccetera, eccetera, sarà pure difficile trovare delle click. Per esempio, immaginiamoci una situazione di questo tipo. Ok, se io trovassi una situazione di questo tipo, quante click avrei trovato qui? 2, 1 e 2. Perché non troviamo una click complessivamente qua? Che cosa manca perché questi quattro nodi formino una click? Bravissimi, manca questo collegamento qui. Dal punto di vista concettuale, però, questo non è rilevante. Dal punto di vista concettuale, a me questi quattro servono come membri di un unico sottogruppo, al di là del fatto che manchi questo, e non come due sottogruppi, questo e questo, diversi, perché non sono diversi, d'accordo? Allora bisogna attenuare il concetto di click. Se noi lo attenuiamo, vuol dire che ci accontentiamo anche di collegamenti che magari non siano a distanza 1, ma pure a distanza 2. Se io tenessi buoni pure i collegamenti a distanza 2, questa diventerebbe subito una click. Perché? Questi nodi sono a distanza 1 e va bene, ma questi due sono praticamente a distanza 2, comunque li potrei inserire all'interno della click. Allora, io posso attenuare il concetto di click decidendo qual è la distanza minima che per me va bene per tenere insieme un sottogruppo, è chiaro? Allora, nel concetto di click normale è 1 la distanza, devono essere direttamente connessi, ma se io cambio questo concetto decido per esempio di cercare delle click a collegamento che raggiungano distanza massima di 2, cioè le click 2. E questa è una click 2. È una click 2 perché i nodi sono tra di loro a distanza 2 o meno inferiore rispetto a 2. 1 e 2. 1 e 2. Ok? Quindi, generalizzando, la click N è il massimo sottografo in cui la distanza geodetica per qualsiasi coppia di nodi non supera il valore N. Se decidiamo che N deve essere 1, allora abbiamo la click classica. Ma non so, cioè non è il sottografo che è così? È il sottografo, la click è il sottografo. La click classica è il sottografo in cui tutti i nodi sono direttamente collegati. Ok? Possiamo identificare questa situazione come una click 1, cioè sottografo in cui i nodi sono a distanza 1. Se cambio 1 e lo faccio crescere, vuol dire che accetto una distanza più lunga tra i nodi. Ok? Per esempio, in questo caso, queste che sono due click 1 complessivamente costituiscono una click 2, perché questi nodi sono tra loro a distanza 2, ma fanno parte dello stesso sottografo. Non so se ho risposto alla sua domanda. Ok, bene, la distanza tra i e j deve essere inferiore o uguale al valore n, quindi la click classica è equivalente ad una click 1. Bene, il concetto di click è un concetto saldamente collegato alla distanza che hanno i nodi rispetto al, diciamo, è come se noi identificassimo un vicinato per questi nodi, un vicinato a distanza 1, massimo distanza 2, 3, se cerchiamo delle click 3, eccetera. Ci sono invece dei tipi di sottogruppi che, posto il vincolo della raggiungibilità tra i nodi, si occupano di definire qual è la quantità massima o minima di legami presenti e attivati da questi soggetti. E faccio subito un esempio di questo. Poi torniamo a quello che ho saltato. Il nucleo K, che trovate nel software come K-Core, questi sono i nuclei, ok? Li trovate tutti dentro i plessi, provate. Si sceglie un grado minimo K per i nodi che possono far parte del sottografo, cioè diciamo, bene, i nodi devono essere raggiungibili, ma perché facciano parte dello stesso sottografo, oltre ad essere raggiungibili, devono avere grado almeno pari a 3, almeno pari a 4. Se il grafo è un grafo semplice, il grado è il numero dei legami che hanno, devono avere almeno 3 legami, 4 legami, 2 legami, eccetera. Il nucleo K è il massimo sottografo che comprende i nodi con una adiacenza reciproca che supera o eguaglia una soglia minima costituita da K. Un qualsiasi nucleo K deve ancora essere formato almeno da K più 1 nodi. Quindi non devono essere necessariamente collegati, ma la adiacenza reciproca deve superare o eguagliare una soglia minima costituita dal valore di K. Questi sono gli esempi che trovate nel testo di nuclei 3. Vedete? La adiacenza reciproca di questi nodi è 3. Potremmo averne altri qua che fanno crescere questa numerosità. Continuerebbero a far parte del nucleo se avessero almeno una reciprocità, una adiacenza con gli altri nodi che lo costituiscono pari a 3. Quindi vedete che il criterio un po' cambia, perché noi qui ci scegliamo un livello minimo di adiacenze di grado che devono avere i nodi per far parte della. E qui è interessante vedere come dell'output che, se chiedete il nucleo di K, viene fuori per diversi valori di K, quando diciamo così i valori diventano talmente talmente bassi da non prevedere più, talmente elevati da non prevedere più la presenza di questi nuclei, oppure talmente bassi da prevedere soggetti che fanno parte di un unico grande nucleo. Sono dei valori che si utilizzano in genere per trovare il valore soglia, quello di sotto o di sopra del quale troviamo più o meno una quantità molto più consistente, molto più bassa di nuclei. Il plesso è un concetto simile a quello del nucleo, però invece di vedere, di calcolare, diciamo, una quantità di adiacenze che devono essere quindi presente minima, qui con K identifichiamo quanti nodi devono mancare, perché i nodi, perché i soggetti, qual è la quantità massima di adiacenze, che è K, che possono mancare per formare un sottografo completo. Faccio prima farvi vedere l'esempio, che è ripeterlo per capire. Questo è un esempio di plesso K. Perché è di plesso dove K è uguale a 2? Perché dentro questa rete ciascun nodo è collegato con altri due nodi, ma non è collegato con due nodi che costituiscono la rete, cioè se stesso e l'altro. Se voi considerate qua, vedete, anche questo è un plesso 2, perché le adiacenze che mancano a questi nodi, questi sono complessivamente 12, se voi contate queste linee, trovate che sono 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cioè ne mancano 2 rispetto al totale dei nodi che costituiscono la rete. Cioè K identifica la quantità di nodi che può mancare, di adiacenze che può mancare, per questo poi bisogna trovare il tipo di dispendibilità, ecco. È un modo un po' diverso di intendere. Ecco, il nucleo M, e poi ci salutiamo. K, ok? Se un plesso come sottogruppo è composto complessivamente da 12 nodi, vuol dire che ciascuno di, ed è un plesso 2, vuol dire che ciascuno di questi può essere privo di due legami rispetto al totale dei nodi. Se sono 12 complessivamente i nodi, ne deve avere almeno 10, gliene possono mancare al massimo 2, ok? Il nucleo M si usa a partire dalla considerazione della molteplicità. Che cos'è la molteplicità? È il numero dei diversi legami. Ok, quindi abbiamo dei grafi multipli, un sottografo finito a partire dalla molteplicità è il nucleo M. I nuclei M sono costituiti da soggetti che intrattengono tra loro legami più frequenti o numerosi. Il nucleo M è il massimo sottografo in cui ciascun legame ha una molteplicità maggiore o uguale a M. Quindi qui cerchiamo i nodi che sono collegati tra di loro, studiamo 5 legami complessivamente, vogliamo trovare i nuclei M dove M è uguale a 3, faranno parte del sottogruppo i nodi che sono collegati tra di loro almeno da 3 legami, non mi interessa quali di questi 5, ma devono essere almeno 3. Quindi è una soglia che riguarda la quantità dei legami. Naturalmente il grafo deve essere un grafo multiplo perché questo possa succedere. Per concludere rapidamente, ma abbiamo già detto prima, vedete, queste sono, se studiamo le affiliazioni, gli scenari che ci si trovano davanti. Questa è la matrice del vostro collega con le 6 associazioni che abbiamo visto prima, quelli sono i 16 eventi. Da quella matrice possiamo produrre una matrice associazioni per associazioni, oppure eventi per eventi. I 16 eventi che si incrociano tra di loro grazie alla condivisione almeno di un'associazione che li ha vissuti tutti e due. E che quindi quando si presenta nel secondo evento dice: ma sapete che di là abbiamo fatto questo, questo e quell'altro? È come se entrassero in collegamento, si coordinassero questi organismi, questi diversi eventi associativi. Ok? E abbiamo concluso il tema della domani. Vedremo rapidamente e come condensare. Chiudiamo rapidamente questa parte qui e poi vediamo il modello applicativo di Contractor e gli altri sulla nel caso di eventi. Avete qualche domanda? No, grazie, scusatemi se vi ho rubato 5 minuti.